Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici e naturalmente buon anno. Vi segnalo oggi tre romanzi di lingua inglese. Uno è forse il migliore proprio di uno scrittore britannico, Jen McEwan, di cui esce Solar, pubblicato da Einaudi, 342 pagine, 20 euro ed è tradotto da Susanna Basso. Incontriamo qua in tre episodi della sua vita, nel giro di 9 anni, Michael Bird, un grande fisico premiato con il Nobel. Non si esclude nemmeno che sia stato premiato anche per errore, ma insomma uno scienziato famoso e altrettanto però personaggio complessivamente sgradevole. Bird è basso, grasso, divorato dalla passione per il cibo spazzatura e soprattutto per le donne, che sposa in serie senza mai trovare a pagamento ereque e soprattutto senza mai volere figli. È un cinico lo scienziato, opportunista, un vero barone, all'inizio drasticamente scettico sul riscaldamento globale. Quando poi un suo allievo vuole assolutamente convincerlo dell'importanza di questo tema, Bird, scrive l'autore, sprofonda nello sconforto della disattenzione, non perché il pianeta fosse in pericolo, di nuovo quell'espressione demenziale, ma perché qualcuno glielo stava raccontando con tanto entusiasmo. Ecco che cosa non sopportava delle persone politicamente impegnate, che ingiustizie e catastrofi fossero il loro latte materno, la loro linfa vitale, la sorgente del loro piacere. Quando, dopo un colpo di scena, Bird sente odore di soldi, lui stesso diventerà l'artefice di un progetto mirabolante il cui esito conosceremo nelle ultime pagine del libro, quando in un altro grandioso colpo di scena ci consegnerà un personaggio nudo, abbandonato, impotente, nel quale esplode forse un barlume di amore. Nel libro si intercalano pagine drammatiche ed esileranti, per esempio la spedizione polare, che tra l'altro ha dato lo spunto proprio allo scrittore a scrivere questo libro. Ma sentiamo dal libro una manifestazione del carattere contorto e cinico dello scienziato. Nei momenti delle decisioni cruciali, la sua mente poteva essere paragonata a un parlamento, una camera di consiglio. Fazioni opposte entravano in conflitto, interessi a lungo e breve termine si trinceravano dietro un atteggiamento di reciproca avversione. Non soltanto sul tavolo dei negoziati arrivavano mozioni discordanti, ma capitava che a certe proposte si desse voce al solo scopo di mascherarne altre. Il dibattito poteva rivelarsi tortuoso quanto turbolento. Di lingua inglese ma di nazionalità canadese, Clancy Martin, autore di Come si vende, pubblicato da Adelphi, 286 pagine, 18 euro, tradotto da Maria Grazia Gini. Questo è un libro per gioiellieri, siamo infatti nell'ambito degli orefici e anche degli orefici un po' imbroglioni ed evasori, quando capita, quelli che lavorano tra Canada e Stati Uniti. La storia è quella di due fratelli che trovano in quel giro una sistemazione con momenti anche di benessere e di euforia, conditi da qualche tirata di coca e da frequenti avventure femminili, che fanno del libro una sorta di romanzo di formazione del giovane Bobby Clark, un sedicenne sfaticato e cleptomane, indirizzato proprio dal fratello all'arte di vendere, e di vendere a qualunque costo, anche a quello di ingannare il cliente e, quando capita, anche se stessi. Il romanzo è a tratti esilarante, a tratti malinconico, e vi troviamo tra l'altro una potente descrizione della follia degli acquisti natalizi dalla quale siamo appena usciti, una follia che nel libro si conclude con un colpo di scena inaspettato. Sentiamo dal libro di Martin alcune righe sull'iniziazione alla scoperta del diamante, che certo affascineranno diverse signore. Ti faccio vedere, si fa così. Non si inizia mai dalla parte superiore della pietra. Se tu fossi l'acquirente, già il venditore saprebbe che ti puoi imbrogliare. Inizia dal fondo. Dopo, il lato, il profilo, tutto attorno al diamante, così. Poi esamini la corona. Alla fine, la tavola, ma da quella capirai molto poco. Il diamante è fatto in modo da nascondere tutto quello che si potrebbe vedere altrimenti. Questo è il talento specifico del tagliatore. Questa è la funzione del diamante. Come la bellezza di una donna, nascondere i propri difetti. Adesso guarda ancora, come ti ho detto io. Il diamante era puro. Non c'era altro che faccette, spigoli, luce. Ma poi, mentre osservavo attraverso il padiglione, dal fondo notai una sorta di sfavillio a forma di S vicino al centro della pietra. Lo cercai di nuovo a partire dal lato, poi di nuovo guardando dal padiglione. Voltai il diamante ruotando le pinze tra le dita come mi aveva fatto vedere Eli Kizakov. E lentamente rifeci tutto il giro due volte prima che tornasse ad apparirmi con una forma diversa. Da lì partiva un'altra linea che si diramava formando una specie di X. Se la si cercava voltandolo di traverso alla luce, rimandava per un istante una sorta di figura corporea color rosso vivo che poi svaniva. La sua apparizione faceva sbattere le palpebre. Riuscii a farglielo fare solo due volte, dopodiché, non so come, mi sfuggì. Forse la luce nella stanza era cambiata, una nuvola di passaggio poteva averla modificata, o un'ombra aveva interferito, forse quella di Kizakov. L'hai vista? Cercai nuovamente la piccolissima inclusione attraverso la corona e la tavola, ma non c'era più. Questo diamante l'ho chiamato Ballerina Rosa, per quell'inclusione. Se la guardi bene, per molte volte, vedrai che la figura è quella di una ballerina. Barchiamo la frontiera, andiamo negli Stati Uniti con uno degli autori più importanti, Philip Roth, che ha pubblicato La Controvita con Einaudi, 398 pagine, 21 euro, tradotto da Vincenzo Mantovani. Questo libro è del 1986 ed è stato acclamato da molti critici come un autentico capolavoro. Rappresenta la quarta puntata della saga di Nathan Zuckerman, il personaggio nel quale lo scrittore si è spesso identificato. Qui Zuckerman è alle prese con la vicenda del fratello Harry, a sua volta colpito da un disturbo cardiaco che, a seconda dei capitoli, può portarlo alla morte, ovvero alla riscoperta delle radici ebraiche. In un caleidoscopio di punti di vista, ciascuno dei quali appunto rappresenta una controvita, un'alternativa frutto talora del caso, talora della volontà, alla vita normale. È una grande prova dello scrittore nell'offrirci questa dimostrazione di quanto sia contraddittoria la vita e di quanto in fondo basti poco per cambiarne il corso. Addirittura poi, oltre la metà del libro, con un colpo di scena che non vi rivelo, cambia completamente il punto di vista del romanzo, e questo offre una prova della grande, grandissima abilità di questo scrittore nell'offrirci la sensibilità di un mondo che può cambiare a secondo i punti di vista e che può essere letto in tanti modi, quasi un romanzo borghesiano questo, che ci riconduce sempre al punto iniziale dal quale si possono dipanare conclusioni insospettabili. Ascoltate queste righe in cui la controvita assume davvero un significato di svolta per un intero popolo, quello ebraico. Il sionismo, come lo vedo io, ebbe le sue origini non soltanto nel grande sogno ebraico di sfuggire al pericolo dell'insularità e alle crudeltà dell'ingiustizia sociale e della persecuzione, ma nel desiderio ben conscio di spogliarsi praticamente di tutto ciò che era venuto a sembrare, tanto ai sionisti quanto ai cristiani europei, un comportamento distintamente ebraico, il desiderio di ribaltare la forma stessa dell'esistenza ebraica. Al nocciolo c'era la costruzione di una controvita che ne fosse l'antimito. Era una specie di favolosa utopia, un manifesto per la trasformazione umana più estremo e agli esordi più inverosimile di qualunque altro mai concepito. L'ebreo poteva essere un uomo nuovo, se voleva. Ai primi tempi dello Stato l'idea piacque a quasi tutti tranne agli arabi. In tutto il mondo la gente tifava per gli ebrei e li spronava ad andare avanti e a disebreizzarsi nella loro piccola patria. Io credo che fu questa la ragione per cui il posto fu un tempo universalmente così popolare. Non più ebrei ebraici. Magnifico. I momenti più belli della lettura sono quelli in cui ti imbatti in qualcosa, un pensiero, un'emozione, un modo di vedere le cose che tu pensavi fossero speciali, esclusivamente tuoi. E all'improvviso, eccoli lì, scritti da qualcuno che tu nemmeno conosci, magari morto da un pezzo. Queste che avete ascoltato erano alcune battute di The History Boys di Alan Bennett, che è uno spettacolo teatrale che è in scena fino al 23 gennaio al Teatro Elfo Puccini di Milano. La regia è di Elio De Capitani e Ferdinando Bruni. E queste battute mi servono per introdurre un libro del grande scrittore inglese, e cioè Una vita come le altre, pubblicato da Adelphi, 174 pagine, 17 euro, tradotto da Maria Grazia Gini. Tra l'altro questo dell'Elfo non è l'unico spettacolo di Bennett, interessante perché c'è stato al Franco Parenti di Milano la rappresentazione della grande occasione, uno spettacolo di Licia Maglietta. Quindi, come vedete, Bennett, uno scrittore molto popolare anche nel nostro paese, ha ormai una frequente ricaduta teatrale. Questo libro che vi propongo è una sorta di biografia, una storia della propria famiglia, di se stessi, una storia scavata e segnata dalla scoperta di un tarlo che ripercorre la famiglia stessa, quella della depressione che torna a manifestarsi nella mamma dello scrittore. Questa scoperta gli fa aprire gli occhi e il cuore su molte vicende della famiglia stessa. E il libro diventa un excursus partecipato, a tratti dolente, a tratti fulminante, caratteristico dello stile di Bennett, come queste righe che adesso vi propongo. Che nelle case di riposo ci sia qualcosa di sbagliato, lo si capisce benissimo dal loro lessico. È fumoso, i termini non calzano e le categorie traballano. Una casa che non è una casa, ma nemmeno un ospedale e neanche un albergo. Come si chiamano gli anziani che ci vivono e ci muoiono? Residenti? Pazienti? Reclusi? Non c'è una parola adeguata. E chi si occupa di loro? Le infermiere? Non esattamente, dato che poche lo sono. Mamma me lo fece notare all'inizio. Queste qui non sono mica infermiere, sono quasi tutte ragazzine e basta. E se non si sa come chiamarle, acchiapparne una è difficile, soprattutto per le ricoverate. In un ospedale si direbbe «Infermiera!» Qui si dice «Scusi?» che è un po' bislacco quando ci si rivolge a non si sa bene chi o magari a una stanza vuota. Certo, la soluzione potrebbe essere chiamarle per nome. Le assistenti portano sempre la targhetta, ma le povere vecchie non se la cavano bene con i nomi, che è proprio uno dei motivi per cui sono finite qui. E io come le devo chiamare? Se anche mi piacesse la parola badante urlata in corridoio, badante! Non funziona. Queste definizioni fumose, la casa che non è una casa, l'infermiera che non è un'infermiera, nascono perché gli ospiti delle case di riposo non sono ammalati in senso stretto. Non è tanto la malattia che li porta qui, quanto un'incurabile inettitudine. Non stanno morendo, sono solo incapaci di vivere, anche se riescono a essere longevi. Ultimi arrivi. Comincio col segnalarvi due classici, uno dell'Ottocento di Edward Murray, di cui torna l'opera più celebrata e certamente uno dei più bei racconti dell'Ottocento, Mozart in viaggio verso Praga. Il libro è accompagnato dal testo originale, curato da Giulio Cesare Maggi e Pierfranco Vitale, pubblicato da La Vita Felice, 190 pagine, 11,50 euro. È un racconto molto popolare che comunque, ricordo, rappresenta un capolavoro romantico che ricama una delicata vicenda sullo storico viaggio che nel 1877 il grande compositore fece verso Praga per presentarvi il Don Giovanni. L'altro grande classico, questa della letteratura italiana del Novecento, è Note Azzurre di Carlo Dossi. Carlo Dossi è un grande scrittore lombardo che di mestiere per un lungo periodo fece anche il diplomatico, vissuto tra il 1849 e il 1910, quindi abbiamo appena ricordato il centenario della morte. E questo volume è curato dal suo maggiore studioso, Dante Isel, pubblicato da Adelphi, 1256 pagine, 26 euro, e contiene una serie di appunti, annotazioni, talune anche ironiche, alcune in milanese, sempre dotte e fulminanti, che permettono di ricostruire la personalità di questo grande scrittore appartato ma geniale. Sentite per esempio questa, la numero 4212. Tale, udendo che si era inventata una macchina per attaccare i bottoni, che peccato, disse, che non l'abbiano trovata 10 anni fa, non avrei preso moglie. La terza opera che vi segnalo è un'opera di attualità, opera di una giornalista ben nota della televisione italiana, Maria Luisa Busi, che si è anche politicamente dimessa dal TG1. Il libro è Brutte notizie, come l'Italia vera è scomparsa dalla TV, è pubblicato da Rizzoli, 270 pagine, 18 euro. E il libro riguarda appunto la rottura che lei stessa ha compiuto nei confronti della sua redazione, del suo direttore, e sulle modalità di informazione della televisione pubblica. Una narrazione che avviene attraverso delle storie che, a suo parere, non si sentono sul TG. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Allora, per farci un augurio libresco, cioè in linea con la passione per i libri, che significa passione per la lettura ma anche per come i libri sono fatti, vi segnalo un originale romanzo di Anna Cuneo, un'autrice italo-svizzera francese, Il maestro di Garamond, è pubblicato da Sironi, 480 pagine, 19,90 euro, e tradotto da Gaia Amaducci. Garamond è uno dei più bei caratteri dell'arte tipografica ed è anche uno dei primi, perché risale ai primi del Cinquecento, porta il nome di chi lo avrebbe inventato, Claude Garamond, appunto, che forse però si limitò a dare il nome a un carattere che aveva inventato il suo maestro, Antoine Augereau, il quale aveva purtroppo fatto una brutta fine perché era stato bruciato per sospetta eresia nel dicembre del 1534. Questo libro della Cuneo ci dà un'appassionata ricostruzione degli albori dell'arte tipografica, una ricostruzione che si intreccia con gli sviluppi della guerra di religione, particolarmente cruenta in quegli anni in Francia. Ma sentiamo l'autrice. Buongiorno ad Anna Cuneo. Buongiorno. Signora Cuneo, che cosa l'ha attratta in modo particolare del personaggio Garamond tanto da spingerla a scrivere questo libro? È stato il fatto che fosse un personaggio sconosciuto eppure così importante per tutto lo sviluppo della tipografia, dunque della lettura, dunque del libro. Sì, anche se questo non è tanto un libro su libri, ma è un libro anche sul fanatismo. Sì, questa è una cosa che poi è successa. Io non volevo quello, volevo solo scrivere un libro sullo sviluppo della tipografia. E poi, scrivendo, mi sono accorta che non si poteva parlare dello sviluppo della tipografia senza parlare di quel momento della riforma e che poi ha dato luogo a tutti questi estremismi, sia protestanti che cattolici. Ecco, allora torniamo alla tipografia. Qual è stato il ruolo di Garamond? Lei lo fa emergere anche inserendolo in una tradizione ormai consolidata in Europa. Dunque, il problema è stato questo. Quando Augereau, il quale è la persona che in effetti ha inventato, diciamo, questo carattere che noi chiamiamo Garamond, è stato bruciato sul rogo come eretico, sono stati bruciati i suoi libri, sono state rotte le sue lettere di piombo e è stato proibito dire il suo nome. Ed è per questo che il suo allievo ha ripreso tutto e queste cose si sono chiamate Garamond. E poi, leggendo documenti, ci si accorge che tutti quelli che conoscevano la tipografia a quell'epoca dicevano sì, Garamond, che però è l'allievo di Augereau, e poi qualcuno dice questi caratteri che sono stati inventati da Augereau. Ecco, nel suo libro lei insiste diverse volte sul fatto che in qualche misura la forma è anche un'espressione della chiarezza delle idee. Questo era un po' lo spirito con cui i tipografi dell'epoca affrontavano la loro opera. Sì, ma se lei pensa ai caratteri come erano prima, in Italia sono stati usati meno, ma in Francia, in Inghilterra, in Germania, quei caratteri gotici erano difficilissimi da leggere, stancano l'occhio. E invece il problema che si è posto prima Aldo Manuzio, poi che si è posto Augereau, appunto, è stato quello di avere lettere che, sulle quali l'occhio potesse scivolare e la mente potesse assorbire senza sforzo. E infatti Garamond aveva conosciuto bene Manuzio. Io non ne sono sicura, questo è il romanzo. Ah. Questo è il romanzo, Garamond. Io faccio andare Garamond e Augereau a Venezia perché so che questi caratteri sono venuti da Venezia e che volevo. Ma questo mio libro non è un libro scientifico, è un romanzo. E ogni volta che non so, invento, naturalmente. Certamente. Cioè, il mio metodo è di sempre usare tutto quello che si sa senza cambiarlo. E intorno, su quello scheletro ci rimetto carne e ossa, ecco. Senta, cosa rimarrà di Augereau, di Garamond, di Manuzio nel mondo degli ebook, secondo lei? Ah, rimarrà tutto. Rimarrà tutto perché la facilità della lettura è un dato necessario, fisso in un certo senso, perché appunto adesso, se lei vede le lettere che si vendono di più anche per i computer, sono le Garamond. Quindi ha trionfato il suo vecchio maestro. Sì, io direi si può dire, non l'avevo pensata così, ma infatti si può dire questo, sì. Bene, grazie ad Anna Cuneo, autrice di Il maestro di Garamond. Grazie a lei. Buona domenica. Buona domenica. A proposito di riforme religiose, vi segnalo due libretti su due grandi protagonisti di quel momento storico. Il primo è il libro di Grado Giovanni Merlo, Valdo, l'eretico di Lione, pubblicato da Claudiana, 120 pagine, 10 euro, un libro che ripercorre la vita di questo eretico, il quale è stato all'origine della comunità valdese che ancora oggi opera soprattutto nelle cosiddette valli valdese, cioè tra le Alpi Cozie occidentali di Torino. Il secondo libro è dedicato invece a Calvino ed è di Christopher Hellwood, Giovanni Calvino, per chi non ha tempo, perché il libro è accompagnato dalle illustrazioni di Ron Hill, non è proprio un libro a fumetti, però insomma è un libro molto agile, pubblicato sempre da Claudiana, 190 pagine, 15 euro, tradotto da Lucia Pugliese, che permette appunto con l'aiuto dei disegni di cogliere quelli che sono stati i caratteri fondamentali della vita e dell'insegnamento di Calvino. Il maestro di Garamond ci porta dunque agli albori dell'arte tipografica, un'arte che presto da quei tempi avrebbe dilagato e cambiato il mondo. Da fenomeno elitario il libro sarebbe diventato col tempo sempre più popolare fino a dare vita a un vero e proprio genere, la letteratura popolare. E proprio alle origini e al successo di questo fenomeno è dedicato il libro Libri per Tutti, genere editoriale di larga circolazione tra antico regime ed età contemporanea, curato da Ludovica Braida e Mario Infelise. È pubblicato da Utet, 360 pagine, 23 euro. Libri popolari in realtà, spiegano i curatori, un'espressione che rischia di essere imprecisa. Meglio parlare di libri, leggo dalla loro prefazione, che possono capitare nelle mani di chiunque, dotto o incolto che sia, da non confondere però neppure con la moderna categoria dei bestseller, legata alla narrativa di consumo, le cui fortune sono destinate a esaurirsi nel volgere di pochi anni. Semmai questi libri di cui parliamo sono da scrivere, scrivono gli autori, alla tipologia dei long sellers, cioè a quei titoli che non compaiono nelle classifiche ma che restano disponibili negli anni e talvolta anche nei secoli. Per esempio, a questa categoria di libri appartiene proprio quella categoria dalle quali prende le mosse questo libro, i libri di cavalleria, ma poi ci sono i libri di magia, i libri religiosi, i libri decisamente rivolti nell'Ottocento a formare una nuova sensibilità politica, i libri scientifici e tanti altri. Tra l'altro non sempre se ne è tenuto debito conto, molti di questi libri proprio per la loro natura povera sono andati esauriti, dispersi, distrutti e invece adesso vengono riscoperti per poter trarre una radiografia della sensibilità popolare in tutti questi ultimi secoli, così come si è formata attraverso la lettura. E su ognuno di questi generi troviamo in questo libro un saggio di studiosi italiani o stranieri. Una vera e propria enciclopedia molto particolare sul libro è quello di un libraio di Modena, Fabrizio Govi, che con l'editore Giorgio Regnani pubblica I classici che hanno fatto l'Italia, per un nuovo canone bio-bibliografico degli autori italiani, e costa 65 euro, 416 pagine. Questo è un libro coraggioso e innovativo anche per le riproduzioni, nelle quali l'autore cataloga in circa 400 titoli, dai Fioretti di San Francesco fino a Gomorra, i libri che a suo parere hanno determinato il profilo della cultura italiana. Questo repertorio presenta ogni opera anche dal punto di vista tipografico, descrivendoci non solo il contenuto ma anche i particolari tipografici appunto di opere che ormai spesso sono introvabili. E troviamo soltanto un centinaio di titoli davvero noti e popolari, gli altri sono assai meno famosi, ma ugualmente significativi e importanti. Tutti i libri che rappresentano, come spiega Giovanni Ragone nella sua introduzione, le avventure degli uomini e degli ambienti in cui sono stati scritti, e anche degli ambienti e degli uomini che li hanno accolti, curati, stampati, piratati, camuffati, riscoperti, rilasciati e così via. Insomma, Insomma, per capire l'Italia attraverso i libri, questo è lo strumento ideale. Agli appassionati di libri, ancora segnalo di Patrizia Traverso, Preferisco leggere, pubblicato da te, a 158 pagine, 12 euro. Questo in realtà è un libro fotografico, un libro di fotografie e parole, perché l'autrice è una fotografa che appunto al tema dedica la sua macchina fotografica e poi accompagna ogni immagine con una citazione da un grande scrittore. Per riprendere quello dal quale siamo partiti, vi leggo questa di Jen McEwan, Quando le donne smetteranno di leggere, il romanzo morirà, ringraziando ancora le nostre ascoltatrici. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo il personaggio di Gigio Folgore, Gigio Folgore inventore, di Chris Riddle, è pubblicato dal Castoro, 12,50 euro, dove troviamo un topino col pallino dell'innovazione che darà vita a un personaggio non meno fantasioso. E con questo ringrazio Margherita Heiner, redazione Fabio Cantadori in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potrete sempre riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro ancora buon anno e vi do appuntamento la settimana prossima.